Quindi ciao Massimiliano, ciao Elio, a tutti quelli che stanno ascoltando. Io vado a cenare e poi ci sentiamo magari dopo. Dai, Massimiliano, ci aggiorniamo telefonicamente, ok? Ehi, va bene, ma la fanno com'è la partita, no? No, il campionato dovrebbe essere la premium, la Champions League, Europa League fanno vedere su Canale 5. Questo è il campionato, è lunedì, quindi gioca solo la Juventus oggi, perché ha giocato giovedì e quindi l'hanno fatta giocare di lunedì, capito? Va bene, dai, vi saluto tutti e ci sentiamo, ciao a tutti, avanti già. Eccoci, porra, sei maledetto. Tu Sabato sei un pindaccio, Alberto, sei andato a vedere Rugoso, come si chiama, la corsa delle moto, Alberto, nel motonato, non vanno da più me. Come? Chi è che è morto? Tu hai visto che è morto quel ragazzo ieri, quando c'era la corsa delle moto? Ma quello non è morto, quello è morto a Vallelunga, le moto che stavo guardando io erano Moto 2, Moto 3 e il MotoGP. Ah, Lucia, vabbè, allora sono pindaccio io, perché ti ho detto mettiti il casco, stai attento all'acqua che sta piovendo e quindi le moto scivolano. Il cazzo ha fatto la guida, ha scivolato, le passate sopra l'acqua, stanno morendo tutti uguali, scivolano in pista e le passano le moto sopra, non si riesce a capire il perché. Che vuoi che ti dica? Comunque considera che con tutte le dotazioni nuove che ci sono, che adesso le tute hanno anche degli airbag interni, i danni sono sempre di meno rispetto a famosi incidenti che hanno avuto altri piloti che sbattendo la schiena si sono ritrovati una carrozzina. Ti ricordi a come si chiamava quell'americano? Non mi viene il nome. Era finito così tanti anni fa. Vabbè, però sta diventando una cosa un po' troppo critica. Non so, vabbè. Va bene. Dai, io vi saluto e vado a cenare, mi ha già chiamato un'altra volta mia moglie. Ciao Gianni, ciao Sabato, fate la buona, ciao Massimiliano di nuovo. Ciao Elio, te ne metto il microfono, Elio. Ciao a tutti, baci e abbracci. Ciao, buonanotte e buonasera. Avanti Elio. Ehi, andiamo più tardi già. Porta gli uomini. Alle prossime. Riprendi Massimiliano. Positivo, ciao Cla, a più tardi, sono entri, se no ci aggiorniamo, ok, davanti Salvatore. Ehi, ciao Cla, a risentirci, io sono ancora qui in ufficio, ma non dovrei tardare ad andarmene via, ancora tre strutture e ho finito. Gianni. Ehi, ma se che rimani dall'ufficio, stiamo usando col computer. Sono per due, nella radio anche, Ascoltata, vai. Quando è solo, magari sta facendo qualche lavoro un po' superficiale, cosa si può attaccare? Sì, riprendo io. Beh, ogni tanto, dai, un 5 minuti giusto per ritornare nel mondo dei vivi, mi collego a voi e basta, ma almeno ho un po' di compagnia, tutto lì. Io lo sto sentendo bassissimo, io me lo sto sentendo basso, perché qua devo lavorare con ogni volta con il volume. Dimmi, ho già. Perché Elio non mi ha dato retta, gli ho detto di aumentare appena appena l'eco, come l'aumentate è uscito, guarda, una bomba, si sentiva benissimo, adesso di nuovo basso. Come è basso? Perché mica l'ho riunito l'eco, come senti? No, devi alzare di più come era poco fa. No, toccato, adesso come è. Ascolta ragazzi, dai, riprendo io, scusate questa interruzione, così riprendo io che vi lascio che anche io vado a cenare, dai, che è pronto, mi stanno chiamando. Ciao Salvatore. Massimiliano, buona carica, ci sentiamo, avanti. Poi... Ciao Massimiliano, buonasera. Va bene. Dipende, sei grosso. Guarda quanto è bello così, Savas. Ma c'è un'altra persona ancora sotto, oltre a Elio? Io sento un incazzato, l'ho sentito anche io qualcuno sotto. Comunque. Oh, io. Sì, mi sembra che vada meglio, anche se le altre volte io lo sentivo molto più forte, poi non so cos'è che abbia combinato. Ma Elio mi sta sentendo? Elio, mi senti? Vediamo, facciamo una cosa. Ok, così dovrei uscire una decina, questo mi sta segnando. Mi sta segnando una decina di watt. Così va un po' meglio? Ok. Già, le prendi pure. Perché dai, fate uno scambio voi, che così mi finisco queste interrogazioni, se no non vado via più dall'ufficio stasera. Le prendi tu già. Ti potevi portare anche il letto, cioè che giri. Ti portavi la cena e il letto, la brandina, così mi pronto per domani. Cava. Ma è proprio necessario farla quest'ora. No, il fatto è che sono una serie di cose urgentissime da fare. Se finisco stasera gli do il lavoro pronto ai colleghi, così possono continuare e portare avanti un determinato discorso. Dobbiamo mettere dei ruoli e quindi possono proseguire. In questa maniera qua riesco a tenergli di molto il lavoro, perché sto facendo un controllo sui database dell'anagrafe tributaria di tutti i nominativi, e quindi lo sto incrociando così i dati delle sole persone che ci interessano. Però praticamente da 14.000 nominativi e quant'altro sto riuscendo a scendere fino a 3.800, capito? Quindi insomma si taglia di parecchio il lavoro. Vabbè, dai, ne approfitto anche io, non dico che vado a mangiare perché sono sempre a mal di pancia forti, ma almeno un cracker me lo mangio, dai. E dai, vai pure, io non riprendo più per almeno 10 minuti perché ho bisogno di finirmi questo lavoro, Elio, a te. Ciao, dai, ne approfitto anche io, che ci siamo mai risultati, dai. Ciao Gian, ciao Massimiliano, San Carosco e ciao alle prossime. Buonasera a tutti, dai. Non so se rientro dopo, vediamo un po' secondo come sto. Sì, va benissimo, già non c'è problema, io sono ancora qua per ora santo. Dai, stai con comodo. Saluto Elio, anche a te. Fate pure con comodo, io tanto sono qua ancora.